perché è ora di cena, chi deve portare il cane, eccetera. E così da, e rischi magari di non trovare nessuno. Io, vabbè, sta che eri qua, e ti faccio compagnia di Antonello. E dai, ho necessità di fare roba qua. E quindi Antone cerca magari di entrare più spesso sul 10, adesso non so che canale è, ogni tanto dove entri, hai detto che fai più ascolto e vabbè, così un po' si ripopola, perché ci sono giorni e giorni che proprio, almeno finché il baracchino è lasciato qua, poi non so se entrano su altri canali, però se lascio il monitor qua ci sono giorni e giorni di buio, proprio. Volentieri, no, adesso sono già di nuovo bello operativo. Un secondo. Ah, ecco qua, che no, che sono di nuovo perfettamente operativo, va benissimo. Io ci provo ogni. Oh sì, meno male la sera, dai. Do qualche colpo di mic e poi ti rispondo ben volentieri. Va bene, sempre sul canale 10. Antone, se potessi aumentare la modulazione un cicinino, sì, sarebbe ottimo. Per la distanza più che altro, dai. Cambia apparato, sto usando il Midland col microfono originale. Metto il Cobra, aspetta. No, che poi più che altro Antonello va bene di radio. È Roberto che è troppo forte di radio perché è più vicino. E quindi è così, dovremmo equalizzare le modulazioni. Dai, io ce l'ho al minimo, mi ce l'ho. Adesso qua non c'è una scala con delle lettere, ma l'ho impostato come se fosse quasi un mic palmare. Se non mi fischia, mi guarda, se alzo. Ecco, lo vedi. No, ti ascolto perfettamente. Non è che sia troppo alta la mia radio, Marco. No, diciamo che sembra alta perché sei estremamente vicino, capito? Invece Antonello c'è l'effetto distanza, dai. E vabbè, però quello così da. Ho detto, vedi, mi fischia se. Appena lo alzo mi fischia e lo devo lasciare proprio al minimo minimo, come fosse un mic. Spero che sia cristallina la modulazione, però credo che vada bene. Ok, signore, io vi devo lasciare. Quelli per me, ci sentiamo quando capita, ok? Ciao Tolello, mi ha fatto piacere sentirti dopo un'infinità di tempo. Ciao Roberto, alle prossime. Vai Roberto. Ciao Marco, mi hai risentito? Io cerco ogni tanto di entrare quando posso, naturalmente, ma molte volte accendo non c'è nessuno. Dato l'altro giorno un amico, abbiamo fatto uno scambio, l'ho dato il baracchino, c'avevo un Alan 48, però quelli nuova generazione, nuovo che ce l'ho da tanti anni, glielo ho dato, dice che c'è la ruota di Alghero, di lì ogni tanto entrano sul canale 15, io non li ho mai sentiti, ovviamente non coincidono le orarie. Vai Antonello per i saluti a Marco. Ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Guarda se va bene questa, ho cambiato apparato, sempre col microfono originale. No, io ti ascoltavo bene anche prima, questa è un po' più forte, più forte, dai, come intensità. Sto usando il Cobra, no prima sto usando il Midland, è tanto questo, era ogni apparato c'è la tua anima. Visto che sei lontano, dammi anche a me un controllo di coso, non di segnale, la modulazione va bene o è troppo alta? Ti sento magnificamente bene, bella presente, no, va bene. Quindi sui 7-9. Già siamo abbastanza vicini, diciamo, probabilmente le antenne si vedono, io sono da un'altra di Sassari, per cui sì, dovrei sparare abbastanza bene, non ci sono problemi. No, parlavo del microfono perché ho toccato un po' la potenza, stavo regolando la radio, facendo delle prove come saliva o scendeva il ROS di questa radio con questo nuovo strumentino, ti posso dire, sono pienamente soddisfatto, costa poco ma tanta resa, accordato in un secondo, proprio pium, vabbè che l'antenna è accordata, ma l'ho messa un po' fuori allineamento, ho fatto un reset di questo giocattolino e ti posso dire funziona bene, va dagli 1,8 ai 50, quanti megahertz fa? Sino ai 55 megahertz, dagli 80 metri fa sino ai 6 metri. Dalla fine si accorda qualsiasi cosa, anche uno spettro di cavolo. Sì, sto dicendo, è impressionante, è poi velocissimo. Poi è bello perché c'è un piccolo display, ti dà la potenza, le onde stazionali, le CVR, la potenza che sta arrivando in antenna in questo momento, in watt, e poi c'è il rendimento, 99%, per cui è perfettissimo. C'ho quasi zero di stazionare, cioè poco più di uno. Sono diciamo quelle cinesate maletti che funzionano alla grande, dove l'hai preso su Amazon? Sì, l'ho preso su Amazon, c'era anche meno come prezzo, 15 euro di meno, però era solo per mercato estero, in Italia non c'era, in Inghilterra, perché se no devi pagare dazi e cose del genere, l'ho preso direttamente, è stato ordinato giovedì della settimana scorsa o mercoledì, è arrivato oggi, stamattina a prezzo, tranquillamente, e ti posso dire, in fotografia sembrava più piccolino, invece è più grande, tutto digitale, nel senso c'ha una batteria interna a tampone, perché poi alimentato per vedersi questa roba qua, c'è il carretto USB, lo puoi attaccare a computer oppure a un caricatore di cellulare, dove vedi qui c'è un caricatore, poi c'è un indicatore di carica sotto, un LED piccolino e poi c'è un pulsantino rotondo che quello serve per entrare in funzione, ma lo fa in automatico, io non ho toccato niente, io l'ho comprato per usarlo in maniera amatoriale, perché adesso quest'estate quando vado in campeggio mi porto l'HF appresso con un'antenna dedicata, diciamo, che fa diverso e mando alle teci per non rovinare l'apparato, e ti posso dire funziona, che è una meraviglia, oltre ogni aspettativa. Poi ho visto che hanno portato anche questo piccolo amplificatore che va da 0,6 a 30, che amplifica qualsiasi segnale, che se avete per fare un costo di 12 euro. Questo è un altro modello da 15 con la batteria interna, c'è qualsiasi cosa dei cellulari, HF, AM, bande lunghe, medie e corte, qualsiasi cosa. L'ho provato, una cosa impressionante, sono un po' veloce, no? Per fare radioascolto. Ma ti dico, io ho quelli professionali, gli accordatori con la Magnum, le metti 3000 che sono dei barragioni, pesano 20 kg l'uno, ne ho due, ma cavolo, questo è il futuro, perché questo è un giocattolino piccolino, ma amici, l'unico problema è che resiste fino a 100 watt di potenza, quello della Magnum resiste a 3000 watt, vabbè, non è caso mio, io non ne uso potenze così alte, però ti posso dire, questo è il futuro, perché poi c'è anche l'accordatore della ZG, il TM, cos'è questo? TM1000, che lo usavo nel baracchino, ma vabbè, è abbastanza semplice da utilizzare, ma questo è immediato, tu come schiacci lui accorda immediato, non devi fare niente, in pochi una frazione di secondo accorda, non ha dei variabili, dei condensatori variabili come quelli analogici, questo è digitale, c'è un circuitino dentro, ci sono delle bobine e spara subito, immediatamente, è veramente un bel prodotto. Quello sì, hai ragione che è il futuro, perché vedo tanti piccoli componenti che sono impressionanti, sono tante cose nel vintage, quello è vero, però per una parte fa un po' paura, qualsiasi oggetto, anche se sta tutto. Ciao Marconi! Il gusto della manualità, quella che a me mi dà un po' da pensare, anche se la tecnologia... Un attimo che ha salutato. Mi fa perdere anche la manualità delle cose, specialmente diciamo, nell'ambito delle radio, poi sicuramente sono punti di vista. C'è qualcuno che ha salutato Marco, avanti che ha salutato Marco, ho sentito, ciao Marcolino, tu non riprendere, non so se l'hai sentito, qua è arrivato abbastanza forte, anche un po' più forte di te, era veramente un segnale vicino. No, la verità non niente, comunque è vero, c'era qualcuno, dai, l'altro giorno ho acceso due o tre volte in giorni diversi, non sentivo nessuno, tutto morto, questo canale 10, prima c'era un po' di gente, anni fa sentivo sempre qualcuno la sera, adesso te ci a vedere, ho sentito a te e a coso, non mi ricordavo il coso, Antonio, ci siamo fatti tante chiacchierate anni fa, e da tanto non ti sentivo, e Marco è capitato più di una volta, poi purtroppo Natalino non c'è più, e chi c'era poi, che ogni tanto si facevano sentire, c'era Doppio Room, Antonino Cavazzacchi, Antonello Pompugno, Giulio qualche volta l'ho capitato, ma ho visto c'è un pochettino meno gente dei tempi, diciamo, di 7-8 anni fa. Quello di per sé, noi a pochi a noi un po' come se ma è circolare, però ho preferito la prendere da partita, sto facendo moltissimo radio a fondo, ecco la verità. Stanno con un vecchio apparato della IAE, la ricerca di propagazione, che sono gli americani, stanno arrivando 7-8 qua, ti mettevano, li sentivo sotto di te, stavano arrivando sparati qua. Questi giorni c'erano dei segnali da paura, 1:20, 1:30, ho girato così un pochettino, ho detto, mentre le radiamatoriali è così, a giorni, certi giorni, per dire, ieri era tutto morto, oggi c'è un pochettino più di movimento, dai, e si sente un po' qualcosa, dai, c'è un po' di, ho sentito c'era poco fa l'India, Indonesia, eccetera. Ok, vediamo se c'è qualcuno su 10 qua che vuole entrare, io ancora un paio di minuti poi devo staccare che vado a mangiare. Vediamo chi vuole entrare qua sul canale 10. Nulla. Avanti ancora a te Antone. Vediamo a tavola. Poi da adesso anche se si è cambiato delle radio, dai, la tua una cosa e l'altra c'è la tua passione. Non muore mai, meglio così. Avanti, grazie, grazie, perché la passione sta diventando anche troppo costosa, e che poi ti prende, vedi una radio nuova, quella radio è bella, ma è quella, magari io gli animati ma sto cercando di fare degli scambi per non pagarle per intero, ma gli dici te, ti interessa questo, ti aggiungo questo, oppure dammi quello e ti do l'altro alla pari, ci ho già fatto qualcuno di operazione e basta, perché anche quello è un, sta diventando un pochettino un lusso, dai, no, comprare radio adesso costa anche un pochettino, magari trovavi una radio prima, all'inizio ti trovavi una radio, come si chiama, a basso prezzo, di vecchia data, poi quando inizi a entrare piano piano nel discorso, allora a quel punto devi avere sempre qualcosa di meglio. Quello sì, ma vedo anche che non è la stessa cosa, però ci sono diverse radio cinesi, di ogni frequenza, di ogni modello, a 70-80 euro, anche con gli DHS, la possibilità di modulare l'allenamento, la radio praticamente non è il massimo, però pensare in questo mondo è meno male che sono presi ancora a bordare, non le siete che la sa desiderare. Capa, vabbè, Antonio, ti devo lasciare che è ora dei pavesini, come si suol dire, mi ha fatto piacere di sentirti, spero di sentirti prossimamente, dai, quando almeno cerco di spostarmi qua sul canale 10, dai, buon tutto, buona serata e buon tutto, ciao ciao. Capa, alla prossima. Ciao Roberto, per il saluto, c'è anche Antonello, io ho acceso adesso e vi ho sentito, ok, ci sentiamo, dai, ciao ciao a tutti. Aspetta, chi sei? Ricordami che adesso le mucce le devo rimemorizzare. No, non ho capito, Roberto. È Marino, sì. Sono Marino, ciao Roberto, sempre 9:18, 9:20, ultimo segnale, sempre qui a Ottava. Antonello, Santiago 6, si aumenta con Santiago 7, non di più, eh. Ok, ho acceso adesso, tanto per scaldare un po' le macchine, che sono un po' indaffarato. Ok, ciao Roberto, ciao Antonello, se stai ascoltando, e saluto anche gli ascoltatori, dai. Mi ha fatto piacere anche a te ascoltare, purtroppo devo lasciarvi, dai, ci saluto tutti e due, ciao ciao, e anche a chiunque fosse l'ascolto sul canale 10. Ok, ciao Roberto, ciao. Arrivi bene, Santiago 7, Radio 5, buonasera e benvenuto. Antonio, hai conosciuto Miai, sì. Anch'io sono un pochettino, devo rimemorizzare. Fai un po' di memoria, sono venuto quanto meglio a casa tua, dai. Fai un po' di memoria veloce, cioè, devo andare via. Tutto copiato adesso, c'è una tastazione sotto, vai di nuovo. Ho un Santiago di 7 qua a Sassari, io sono a Ottava, mi sta arrivando, comunque la radio è buona, la radio è buonissima, va bene, dai, ciao Antonio, ci sentiamo, dai. Alle prossime, buona serata. Ciao, ciao.